Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, mancava all'appello la Lazio, ha timbrato ieri sera all'Olimpico contro un Novara per la verità molto modesto, e in ogni caso la classifica adesso vede Juventus 29, Milan e Udinese 27, Lazio 25, e al momento la lotta per il titolo sembra ristretta a queste quattro squadre, così come sembrerebbe ristretta a proprio a Novara, Cesena e Lecce la lotta per salvarsi, visto che si sono abbastanza nettamente staccate sul fondo. A far la parte del Leone ieri sera il vecchio attaccante Rocchi. Sì, sto bene, mi sto allenando bene, sto giocando con più continuità e cerco sempre di riuscire a dare il contributo alla squadra. Bene, siamo stati bravi a giocare una partita molto attenta, molto concentrati, decisi nel volere a tutti i costi il risultato, perché per noi era importante vincere, fare una bella partita e rimanere comunque sempre nelle zone alte di classifica. Volevamo a tutti i costi vincere, volevamo ritornare comunque nella zona alta di classifica, rimanere nelle prime della classifica, e l'abbiamo fatto con voglia, con determinazione. Passiamo al calcio internazionale, capitolo che si apre oggi con il presidente della FIFA Blatter e questa sua apertura finalmente alla tecnologia. Un giorno devi dire basta nella vita, questa è la frase di Blatter in una intervista alla Gazzetta dello Sport. Rimetto in piedi la FIFA nel 2015, la lascio nelle mani di un altro, e fin lì va bene perché non è mai troppo tardi, ma soprattutto non è mai troppo tardi per la frase successiva: stiamo sperimentando la tecnologia sul gol fantasma, l'International Board deciderà a marzo, ci siamo, l'importante è che il sistema sia immediato, affidabile e non complicato. La FIFA non può più accettare che si ripeta quanto è successo in Sudafrica, un pallone dentro di 70 centimetri visto fuori. Però, caro Fabio Tavelli, i riflessi del vecchio Blatter ci sono ancora. Buongiorno Gigi. Buongiorno. Sì, guarda, io mi auguro che i tempi di reazione della tecnologia della quale parla Blatter siano un filino più reattivi rispetto a lui, perché il Sudafrica è passato da un anno e mezzo, e credo che questo fosse un dibattito da aprire immediatamente dopo, cioè nel luglio del 2010, una volta fischiata la fine della sfida tra Olanda e Spagna. Non è successo perché giustamente Blatter poi cita e nomina l'International Board, che è appunto sono i numi tutelari, i sacri depositari delle regole del calcio, però finalmente da questo punto di vista credo che l'UEFA abbia fatto la sua parte in questo, con la continua sperimentazione che poi è diventata regola del giudice di porta, e a questo punto effettivamente se esiste una sperimentazione che possa essere portata all'International Board e questa possa dare delle garanzie molto vicine al 100%, insomma credo che sia un normale passo avanti, fatto con molto ritardo, ma quantomeno verrebbe fatto prima del prossimo mondiale, quindi diciamo che in ogni caso la scadenza del 2014 era fatta salva, fermo restando che questo possa essere anche utilizzato molto prima, visto che Blatter parla di FIFA e quindi evidentemente parla delle competizioni sotto l'egida della FIFA. Nulla osta a quel punto, una volta avuto l'ok dell'International Board da parte delle federazioni, di recepire questa direttiva e attrezzarsi dal punto di vista anche tecnologico. Sì, direi che la prassi e i tempi dovrebbero essere grosso modo questi. I tempi però ci dicono anche che stasera comincia la doppia ultima giornata di Coppa. Allora evidentemente il motivo, l'interesse principale per noi riguarda il Napoli domani sera a Villareal. Ci sarà tempo per i dettagli, ma è già ora di un tema di vigilia, anzi di antivigilia, che ha un po' scosso questo match, e mi riferisco alle allusioni già della settimana scorsa del presidente del Napoli De Laurentiis a queste famose, come si chiamano le valigette in spagnolo? Maletines. O portas, sì, maletines è il nome più popolare, più utilizzato. Sì, devo dire che la vulgata in questo sostiene che in Spagna siano perfettamente legali e altrove no. In realtà esiste un articolo, che è l'articolo 112, che espressamente le vieta. Diciamo che sarebbero i premi a vincere, scusami, le maletine. Sono i premi a vincere. I premi a vincere sono i premi che una squadra non direttamente implicata in una partita potrebbe garantire a un'altra squadra, evidentemente senza forti motivazioni, per batterne un'altra. Uscendo dalla metafora, se il Manchester City decidesse di investire certo numero di sterline, o in questo caso di euro, visto che il Villarreal incasserebbe in euro, potrebbe portare appunto al Madrigal una serie di malettines gonfie di denaro, perché ovviamente lì la transazione, non, il decreto Monti non è ancora arrivato e quindi le transazioni vanno ben oltre i 1000 euro, anche perché insomma ce ne vuole, e per convincere Villarreal a impegnarsi moltissimo. In questo caso è proprio un premio a vincere, cioè le malettines vengono utilizzate come ricompensa, le malettines possono essere, come dire, promesse, poi però bisogna ottenere il risultato, quindi la malettina può essere promessa ma poi non incassata nel caso in cui al vigore e all'impegno non faccia seguito il risultato finale. Sì, fermo restando che in questo caso, dicevi, un premio a vincere potrebbe anche essere soltanto un premio a pareggiare in questo caso, no? Perché... Sì, però dovrebbe essere abbinato alla vittoria del Manchester City, in ogni caso il Manchester City, il Bayern di Monaco deve fare, però qui il discorso potrebbe anche essere contrario, cioè le malettine potrebbero essere anche portate all'Etihad Stadium per gasare il Bayern di Monaco. È un discorso dal quale non usciamo più. Io credo che abbia sintetizzato benissimo un giocatore del Getafe una volta, diciamo che le malettines erano un po' come Bin Laden, tutti ne parlavano ma nessuno l'aveva mai visto, e poi vabbè, Bin Laden è stato catturato, sì, per cui magari adesso l'esempio è meno calzante, però è vero, nel senso che nessuno ammetterà mai, anche se poi la storia, soprattutto in Spagna, nelle ultime giornate ha portato degli esempi particolari nei quali è spesso stato il Real Madrid ad avere la peggio, soprattutto un finale di Liga nel 92 con il Mallorca sotto 2-0 alla fine del primo tempo, un Mallorca, come dire, rivitalizzato nella ripresa, capace poi di vincere la partita e far perdere la Liga al Real Madrid. Sì, però ripeto, nessuno ammetterà mai questa cosa. Io ti ho chiesto come si diceva in spagnolo la rigetta, adesso dato che mi sembra un brutto film ti potrei chiedere come si dice in italiano un brutto film. Come no, si dice? Ci metterei troppo. No, io penso no che, ma Cinepalettone stavo pensando, sai, semplicemente. Sì, sì. No, io pensavo proprio ai titoli, visto che poi Vacanze di Natale viene derubricato o declinato a Vacanze a Miami, Vacanze a Cortina, Vacanze... Sì, non un buon film, sinceramente. No. Non una buona idea, secondo me, neanche quella di mettere le mani avanti da parte del presidente De Laurentiis, che credo l'abbia fatto a modi pretattica. E è anche vero che da un punto di vista psicologico, diciamo che la cosa non si verifica, se il presidente De Laurentiis ha un po' fatto arrabbiare i giocatori del Villarreal, ma se questi arrabbiati contro il Napoli giocassero la partita della vita, ecco che autorizzerebbero al sospetto. Quindi di fatto la mossa di De Laurentiis è psicologicamente memorabile, perché a questo punto se il Villarreal dà il 110% il sospetto ci sarà, se non lo dà a quel punto lì nessuno si ricorderà delle malettine. Rifaccio la domanda: è tecnicamente in grado, secondo te, il Villarreal di mettersi di traverso davvero sulla strada del Napoli e fargli perdere l'Europa? Guarda, la mia risposta è sì, però devono succedere un paio di cose. Intanto il Napoli non deve fare una grande partita, e questa è la primissima condizione, cioè a parità numerica in campo contano moltissimo le motivazioni. Quelle del Napoli sono straordinarie, sono anche economiche, questa è una partita che vale diversi milioni di euro ed è una partita per certi versi storica. Il fatto che siamo di fronte a un appuntamento con la storia può anche giocare un brutto scherzo, perché la caratura europea del Napoli è una caratura in divenire. Fino adesso il Napoli le partite che non doveva sbagliare non le ha sbagliate. Poteva sbagliare quella di Monaco e sostanzialmente ne ha sbagliato un tempo abbondante. Quella di Manchester non l'ha sbagliata, quella in casa col Villarreal con il Manchester City l'ha giocata alla grande, quella col Bayern di Monaco l'ha giocata decentemente in modo da non perdere. E quindi fino adesso gli indizi sono positivi per il Napoli. Io credo che il Napoli abbia tutte le possibilità di passare e di passare anche in maniera abbastanza tranquilla, però non deve fare una partita sufficiente, deve fare comunque una partita discreta, perché Villarreal già l'anno scorso in Europa League al Madrigal prese degli schiaffi. Degli spagnoli in questo io non mi fiderei mai, e quindi starei sempre molto attento. Il Villarreal non ha nemmeno la motivazione dell'Europa League, quindi di fatto è davvero un allenamento agonistico per loro. Diciamo che se la partita si mette subito bene, io penso che il Napoli la possa gestire. Diciamo che se il Napoli malauguratamente dovesse andare sotto e quindi vedere qualche spettro, ecco che lì la situazione potrebbe complicarsi. Però io credo ci sia il massimo della fiducia e il massimo dell'ottimismo, perché legittimamente il Napoli merita di passare il turno. Tutto questo domani sera, il resto che riguarda le italiane, Milan e Inter, Milan stasera e Inter domani sera non conta, perché sono allenamenti in cui fare il meglio possibile, anche per ragioni economiche, come dicevi tu, perché i punti fruttano in Coppa Campioni e come se fruttano, ma insomma non c'è certamente null'altro in palio se non questo, mentre invece si giocano, e questo è un paradosso vero, credo, storicamente rispetto a quello che le coppe, a quello che la Champions League è negli ultimi anni, storicamente la differenza è che rischiano, ma rischiano molto, non una ma tre squadre inglesi addirittura di finire fuori tra oggi e domani. Guarda Gigi, è un paradosso pazzesco, se tu consideri che la quarta che ha vinto il suo girone è quella che è passata dal preliminare, quindi le tre squadre entrate dalla porta principale rischiano di essere buttate fuori, e devo dirti che il rischio è un rischio serissimo, perché speculare al discorso che abbiamo fatto fino adesso, quello del Manchester City che deve battere il Bayern di Monaco, e credo che lo farà, perché comunque ne ha le possibilità, e il Bayern di Monaco comunque può giocare una partita più rilassata, però non è padrone del proprio destino. Quindi se il Napoli fa il suo, il Manchester City con tutto il suo carico di sceicchi, di miliardi, dovrà giocare l'Europa League, e quindi io do davvero al 70% la possibilità del Napoli di passare, quindi il 30% per il Manchester City è poco. Le percentuali salgono se parliamo di Chelsea e Manchester United, ma con grande attenzione, perché il Manchester United deve giocare una partita molto delicata contro il Basilea, è una partita nella quale Ferguson si è già scottato nella partita d'andata in casa, gioca in trasferta contro una squadra che ha fatto benissimo nel girone, in questo girone il Benfica sa che passerà perché ha 9 punti e quindi teoricamente può essere scavalcato, ma gioca in casa contro lo Selul Galati che ha fatto 0 e quindi non è pensabile che non vinca. E quindi una delle due tra Manchester e Basilea sta fuori. Il Manchester ha un punto in più, quindi può pareggiare, però il Basilea vincendo passa, e quindi in questo caso il rischio è alto. Come è molto alto il fatto di non vedere il Chelsea agli ottavi di finale. Il Chelsea gioca in casa col Valencia. A differenza delle due di Manchester, stasera mi pare il Chelsea. Sì, esatto, sì. Il Chelsea gioca stasera. La curiosità di questo girone è che gli arbitri di tutte e due le partite sono italiani, perché Rocchi arbitra a Stamford Bridge, mentre nella partita tra Genk e Bayer Leverkusen arbitra a Tagliavento. Ma al di là di questo, la curiosità è quella dell'incrocio, perché Chelsea e Valencia, per quanto riguarda la loro sfida, possono anche vincere il girone, tra l'altro, perché hanno un punto in meno del Bayer Leverkusen. Se il Bayer Leverkusen facesse la frittata e perdesse, chi vincesse a Stamford Bridge vincerebbe il girone. E questa non è una cosa di poco conto, perché noi dobbiamo sempre considerare il tutto nell'ottica di Milan e Inter, cioè Milan secondo nel girone, se il Chelsea vince diventa un avversario possibile nell'una di Neon. E quindi credo che ad esempio al Milan attifino perché il Bayer Leverkusen vinca questo girone, cosa peraltro probabilissima. Comunque qui è curioso, perché in caso di stesso risultato, cioè di pareggio, possono passare o il Chelsea o il Valencia, perché nel caso di pareggio con gol passerebbe il Valencia, in caso di pareggio senza gol passerebbe il Chelsea. Quindi vedi, con lo stesso risultato ma con uno score diverso, cambia la squadra che passa, proprio perché all'andata finì 1-1 al Mestalla. Quindi è una partita veramente da brividi veri. Io devo dirti, sono abbastanza ottimista per il Chelsea, perché li ho visti non male nell'ultima partita, dopo essere andati malissimo in Carling Cup, e quindi penso che il Chelsea abbia almeno il 51% di possibilità di passare. Questo è un discorso che vale sia per le inglesi ma anche per le spagnole, perché se le spagnole dovessero perdere anche il Valencia oltre il Villarreal, ecco che comunque si aprirebbe per loro un piccolo processo, perché dopo le grandi luci, le grandi stelle di Barcellona e Real Madrid, anche in Champions la ripercussione di un campionato di fatto molto povero, cioè due squadre e tutto il resto, appunto si riverbererebbe anche sulla Champions League. Ne riparliamo giovedì a cose fatte, ci sarà l'occasione anche di un bilancio globale di questi gironi, visto che questa è l'ultima giornata, e sarà anche l'antivigilia di Real Barcellona, e quindi del meglio che si può vedere oggi in Europa. Grazie tra a Fabio. Tra l'altro, perdonami Gigi, una curiosità: ieri in conferenza stampa, a domanda precisa a Guardiola, gli hanno chiesto una battuta sul classico. Lui ha detto: più che al classico, in questo momento sto pensando a Sarkozy e Angela Merkel perché salvino l'Europa. Perché mi pare sia lo stesso giorno che c'è un vertice dedicato in particolare alla Spagna. E quindi, esattamente. Esattamente. Beh, non ha tutti i torti. No. A giovedì, grazie. Grazie, Gigi, ciao. Brutta notizia per la Juventus arrivata stamane, perché Vucinic è infortunato, ha una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale, e quindi la prognosi è di almeno 20 giorni, che vuol dire che come dire, la parte invernale del campionato, o comunque il 2011 per Vucinic, è terminato proprio alla vigilia della sfida che l'avrebbe visto tornare da protagonista, ma da avversario stavolta, sul campo della Roma. Ermanno ha chiamato dalla provincia di Trento, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, grazie per avermi dato questa opportunità. Io telefonavo dopo aver sentito le furbe insinuazioni del presidente del Napoli su eventuali premi a vincere che riceverebbe il Villarreal se fa la partita della vita. Siccome io sono appassionato di sport in generale e mi piace sempre pensare che si vince comunque sul campo, in pista, da qualsiasi parte, salvo dimostrare il contrario, mi augurerei che il Villarreal facesse una partita veramente penosa, ma proprio ridicola, ma che il Napoli giocasse, perde e uscisse. Così si toglie al presidente del Napoli l'opportunità, nel caso il Villarreal facesse una gran partita, di dire ma c'era sotto qualcosa, perché mi sembra veramente una furberia, una maliziosità di cui non ce n'è assolutamente bisogno. Ecco, tutto qua era il mio pensiero, perché un cinepanettone. Lo sport vero sempre, comunque, che vinca il più forte. Sì, sono d'accordo con lei, Ermanno, ma insomma, ogni tanto a pensare male si può anche essere legittimati, intendiamoci. La differenza, secondo me, è tra pensare e parlare, soprattutto quando si occupano dei posti di responsabilità. Tra l'altro, questo è un problema che nelle coppe, perlomeno la UEFA, ma anche la FIFA nei mondiali, si è posta e come? Risolvendolo in un modo abbastanza semplice, cioè mettendo dei premi a vincere in diretti anche per le squadre già eliminate, nel senso che, dato che ogni vittoria vale e frutta una determinata somma, ripeto, e questo vale per campionati d'Europa, campionati del mondo, vale per queste coppe, eccetera, e sono premi anche abbastanza congrui, abbastanza robusti. Il premio a vincere c'è, cioè l'interesse a giocare sul serio e a fare punti c'è per la società, e quindi il Villarreal il suo premio ce l'ha. Se poi vogliamo pensare male, beh, gli sceicchi del City, per andare oltre questo, per integrare questo premio, dovrebbero evidentemente mettere una cifra significativa, ma lì entriamo appunto in questa logica, entreremo in questa logica distorta. Umberto ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io le volevo chiedere, io sono un tifoso dell'Inter, ormai il momento di crisi c'è, però quello che mi chiedo è, ma questo benedetto fair play finanziario, se tanto a fine campionato non si va in Europa, quale sarebbe la motivazione nel rispettarlo? Si potrebbe rifondare una squadra, di qui a 2 o 3 anni probabilmente si rientra poi in Europa, e a quel punto si tiene da conto che si fanno le cose per bene. O è semplicemente la voglia di non spendere che ormai purtroppo ha colpito un po' tutti, tra cui anche il nostro presidente? Se il suo presidente fosse stato colpito, come lo chiama lei, fosse stato colpito da quella che lei definisce la voglia di non spendere, sarebbe un rinsavimento tardivo, pare il mio, per una persona che ha speso alcune centinaia di milioni di euro in questi anni, in questi 16 anni, per le sorti dell'Inter. Il resto del progetto mi sembra abbastanza grottesco, cioè i casi sono due, il progetto che delinea lei. Se è un progetto di ristrutturazione e di ridimensionamento, tant'è vero che lei dice così poi se ne riparla tra 2 o 3 anni, non mi pare ci sarebbe bisogno di grandi investimenti, no? Perché significherebbe puntare su giovani o comunque rifondare una squadra non necessariamente con dei campioni. Se si invece puntasse con dei campioni, si chiama in causa sia il fair play che la difficoltà comunque questi campioni di reperirli, tanto più a metà stagione. Insomma, diciamo che grosso modo il ragionamento mi sfugge, ecco, la prospettiva perlomeno mi sfugge. Sentirei a questo punto, credo che abbiamo il tempo di farlo, sì, sentirei le prime parole di Cosmi, da neo allenatore del Lecce, un'altra avventura che parte per questo tecnico perugino, le ultime, insomma, tanto tanto brillanti non sono state. Sentiamo che cosa pensa di questa di quest'altra avventura leccese. Alla squadra ho detto che allenare il Lecce era stato sempre il mio desiderio. Questo si è realizzato magari in un contesto oggi non di grandissimo entusiasmo e con una situazione di classifica diversa da quella che la società, che la gente, i tifosi, credo anche, anzi mi spero, anche gli stessi giocatori si auguravano, insomma, voglio dire. Quello che non ho visto oggi, cioè quello che da fuori, e quindi da spettatore, che è un ruolo molto semplice, voglio dire, però, è quello che ho visto, una squadra, usato un termine, poco disperata in campo. No, sinceramente confesso non aver ben capito cosa sia questa Hall of Fame fiorentina di cui si parla. So soltanto che ieri c'era un sacco di bella gente a Firenze e che tra i tanti insomma, qualche personaggio ha parlato in maniera interessante, come quasi sempre accade. Le frasi migliori le ha dette, qualitativamente migliori, più interessanti, più affascinanti le ha dette Michel Platini. Sentiamone un frammento. Era l'avvocato Agnelli che mi ha imparato un po' la vita di un personaggio che era straordinario ma che era molto semplice. Dal presidente Boniperti ho imparato a spendere i soldi e da Trapattoni a attaccare e da Brandelli a giocare a carte. Vabbè, così li ha sistemati, no? A parte la deferenza per Agnelli, li ha sistemati un po' tutti alla sua maniera, perché a carte Platini se la cavava e comunque vinceva più di quanto non vincesse Prandelli. Allora seguivi i ritiri e quindi sono stato anche testimone oculare certe volte lunghe interminabili partite in aereo tra i giocatori di quell'epoca. E poi quale ha detto quella di Boniperti, sì, che era un grande risparmiatore in effetti, quindi lui ovviamente se l'è giocata al contrario. E da Trapattoni ha imparato ad attaccare, non è male, perché le uniche volte che Platini e Trapattoni, non dico litigavano, ma insomma avevano punti di vista diversi, era sempre perché secondo Platini la squadra era troppo a trazione posteriore e lui avrebbe voluto un altro giocare in un'altra maniera. Giampaolo ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono un tifoso del Napoli. È vero, insomma, che il presidente nostro non è che dice sempre le cose giuste, anzi spesso dice delle cose che sono assurde, però vorrei replicare al precedente radioascoltatore che si augura, insomma, che il Napoli perda la partita nonostante la, insomma, una brutta prestazione del Villarreal. Invece io mi auguro una grande partita del Villarreal, una grande partita del Napoli e il passaggio del turno del Napoli. Questo me lo auguro per tutti i tifosi napoletani e anche per quelli italiani in generale. Grazie. È legittimo, le dirò, ed è anche più logico che sia così rispetto al parere precedente. Era un paradosso, evidentemente, quello dell'ascoltatore di prima, che nasceva da questi eccessi dialettici, da queste schermaglie, tra l'altro già sentite, insomma, no? Che agitano certe vigilie. Luigi ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo chiederle, per quanto riguarda il pallone d'oro, lei non darebbe il pallone d'oro a Savi, oltre per le sue qualità sportive, anche per il suo comportamento fuori dal campo, mai polemiche, non ha figli in giro per il mondo, non ha tatuaggi? Beh, anche però Messi che sappia, per dare un segnale anche un po' al sistema, ovviamente è un grande giocatore. Sì, ecco, io partirei da lì. Io a Xavi l'avrei già dato l'anno scorso il pallone d'oro, sinceramente ne abbiamo parlato spesso, anche se, come forse saprà, non è proprio l'argomento che più mi affascina, ma l'avrei già dato l'anno scorso, perché mi era più ancora l'anno scorso di quest'anno il leader non solo del Barcellona, ma il leader della Spagna campione del mondo era stato proprio il professor Xavi, che è uno dei più grandi giocatori uno dei più grandi centrocampisti del dopoguerra, e comunque ha una cifra unica di interpretazione del gioco, della partita, una personalità straordinaria, un giocatore di enorme correttezza, sono d'accordo, però se lei la mette sul parametro della correttezza e dei comportamenti in campo e fuori, mi pare che anche Messi da questo punto di vista abbia ben poco da invidiare. Non lo so, decideranno giurati non so quanto probabili, nel senso che un tempo mi sembravano, anche perché erano in un numero inferiore, quindi più si allargano le basi e più secondo me i verdetti poi sono discutibili, quando appunto viene chiamata in causa una grande competenza settoriale come come nell'ipotesi del pallone d'oro. Vincerà l'uno o vincerà l'altro, mi pare che quest'anno il verdetto sia in ritardo, cioè sia il 9 gennaio, e non, quindi è a inizio anno e non più a fine anno. Credo che il motto debba restare, il motto per l'assegnazione del pallone d'oro in fondo debba restare ma chi se ne frega, credo, così a occhio, perlomeno questa è la mia impostazione personale, fatta salva ovviamente la curiosità. E il fatto che poi, nonostante chi se ne frega, si ingenerano ovviamente discussioni, valutazioni diverse, eccetera. Il sale del calcio è anche quello. Pallone d'oro, a proposito di correre, no? di avere fretta nel calcio. Daniele scrive da Sassuolo: può Marchisio diventare il trascinatore dell'Italia ai prossimi europei? Risposta mia: sì, cioè lo è già della Juventus. Ha già fatto alcune buone figure in nazionale, è ovvio che se va avanti di questo passo, ma se mantiene semplicemente questo passo, può essere un trascinatore d'Italia ai prossimi europei. Seconda domanda, sempre Daniele Sassuolo: potrebbe secondo lei arrivare a competere con Xavi e Iniesta per il pallone d'oro l'anno prossimo? Aridaie, cioè, ma che fretta c'è? Vediamo, lasciatelo, non dico crescere perché Marchisio ha 25 anni, lasciatelo giocare, sereno, e poi il pallone d'oro è sempre della serie, ma chi se ne frega. Domenico, provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo chiederle, sapere il suo parere sul diciamo questa espulsione da fallo di ultimo uomo, perché il ragionamento che faccio io il giocatore che è rimasto ultimo tende ad opporsi a che gli altri gli facciano gol. Ora cosa deve fare? Togliersi di mezzo, dire prego si accomodi? Ovviamente non deve essere un killer, però in qualche modo deve opporsi, e poi ovviamente se lo ostacola l'avversario in maniera non ortodossa viene pulito con rigore, perché poi come domenica nel caso della Juventus, nel caso del portiere, questo crea un danno alla squadra diciamo avversaria incalcolabile. Domenico, sono 20 anni che si va avanti con questo discorso e forse la FIFA comincia a sentirci da questo orecchio un pochino. Faccio un minimo di storia, di cronistoria su questo provvedimento. Dopo che nel 1990 in Italia si giocò il peggior mondiale della storia da un punto di vista qualitativo, non per altro, la FIFA insomma, capì che qualcosa bisognava fare per provare a migliorare questo gioco, e tra le cose che, tra i provvedimenti che allora vennero presi, ci fu, esempio, il divieto di retropassaggio al portiere, che fino allora poteva pigliare il pallone con le mani. Oggi lo so che sembra di parlare, in effetti si parla dell'altro secolo, ma insomma sembra di parlare del secolo prima ancora, ma se lei rivede, faccio un esempio di una squadra che è passata alla storia per la bellezza del suo calcio, se lei rivede il Milan di Sacchi, la prima cosa che la colpisce è il numero spropositato di palloni indietro che venivano dati a Galli o a Pazzagli per non rischiare niente una volta che il Milan riconquistava palla in difesa. Questa non è una critica, sia ben chiaro, è per dire che fino al 90 si giocava in un certo modo, in maniera perfettamente legittima. Dal 90 in avanti, nei successivi 2-3 anni, una commissione arbitrale, che tra l'altro fu proprio Blatter, e questo rimane secondo me il principale suo merito nel mondo del calcio, fu Blatter a istruire, allora era segretario generale della FIFA, e coinvolgendo alcuni personaggi di spicco e di spessore, e tra questi l'allora designatore italiano degli arbitri, Paolo Casarin, che fu tra gli ispiratori di quelle manovre e di quei cambiamenti, si decisero alcune cose, allora divieto di retropassaggio, sanzioni più gravi per il fallo tattico a centrocampo, che allora era assolutamente di moda, parlo di Milan, ma parlo di Marsiglia, parlo di tante altre squadre contro cui era diventato difficile giocare per il fallo tattico sistematico a centrocampo, e tra le altre cose l'espulsione del fallo all'ultimo uomo. L'espulsione del fallo all'ultimo uomo, da anni ormai si è capito che, o comunque se non si è capito, forse si è capito davvero, insomma, che mentre in certe zone del campo può essere legittimo, in area, quando si va a sommare già al calcio di rigore, è una doppia punizione eccessiva. Soprattutto a carico dei portieri, perché già il portiere è discretamente penalizzato da che cosa? Ma dal fatto che l'introduzione del fallo ultimo uomo cosa ha comportato? Che mentre una volta, fino al 90, l'attaccante in linea di massima arrivava davanti al portiere e cercava di infilarlo sull'uscita, adesso sistematicamente prova a dribblarlo, e prova a dribblarlo andando a cercargli le mani, spesso le braccia, spesso e volentieri, per lucrarne un rigore. Ora pare che finalmente di questa doppia sanzione si stia un po' stufando anche nei vertici, no, dirigenziali, e si possa sperare di tornare a una sanzione semplice oppure aggravata da un'ammonizione, diciamo, ma non più l'espulsione. Ha chiamato Diego da Padova, buongiorno. Buongiorno signor Galantini. Dica. Volevo fare una piccola curiosità da chiederle. Io ieri ho visto la partita di Lazio-Novara e ho notato che i tre gol subiti dal Novara, secondo me c'è una responsabilità del portiere in tutti e tre. Ho notato anche che il portiere indossava una maschera a protezione di qualche frattura al naso, non so cosa abbia subito. Non è il caso in queste circostanze, forse un portiere ancora più di un giocatore di movimento dovrebbe essere sicuro di vedere bene la palla o vedere bene l'avversario. Per cui non so perché non fare giocare il portiere di riserva e mettere in campo un giocatore in quelle condizioni. La ringrazio. Ecco, ripartita al posto di questo titolare che aveva subito un incidente molto grave qualche tempo fa, e credo che giustamente la società e la guida tecnica Tessera lo vogliano recuperare, e il recupero di un portiere dopo un infortunio così grave al volto, alla testa, comporta progressivamente qualche piccola penalizzazione temporanea. D'altra parte Cech, il portiere del Chelsea, da quando gli spaccarono la testa, tra l'altro con un calcio proditorio, gioca con una protezione, e ieri sera ha giocato con una protezione anche quella del Novara, che effettivamente insomma, qualche titubanza è sembrata averla, ma credo sia normale, un po' per la maschera, un po' perché forse il trauma ti rimane, ma cosa fa? Smette la carriera? No, cerca di riadattarsi, insomma, giustamente gli dà la possibilità di riadattarsi al cosiddetto clima agonistico. Gian Domenico, Milano, buongiorno. Salve dottor Garanzini, è un onore poter parlare con lei. Prima di porre la domanda sul mio vecchio grande Napoli, io volevo dirle che sono un po' arrabbiato con lei, nel senso che un decano per me dei giornalisti sportivi, uno dei più garbati, dei più onesti che abbia mai sentito. E è vero che lei ama il lavoro della radio, però io vedo come possa lasciare spazio in televisione ai suoi colleghi incompetenti e secondo me anche maleducati, si sovrappongono alle voci in televisione e non danno spazio a ragazzi intelligenti, anche quelli come quelli che ha trattato lei la settimana scorsa, Gian Domenico, anche fuori canoni del calcio. Primo cartellino giallo, ascoltiamo il traffico. Caro Gian Domenico, se era giallo il cartellino per lei, le lascio immaginare il colore per www.bastascuse.it. Sì, no, io volevo solamente esortarla a fare anche qualche trasmissione sportiva, perché penso che lei è ben maturo ed esperto. Surmaturo. Per fare una trasmissione televisiva. Sì. Io volevo fare quella domanda sul mio vecchio grande Napoli. Volevo ricordare a tutti gli ascoltatori, tifosi e non, che il nostro presidente De Laurentiis, per quanto burbero e antipatico possa sembrare, e magari lo è, ricordo che lui veste i panni del Mourinho presidente, quindi è il parafulmine della squadra, visto e considerato che è l'unica squadra del sud forte, e quindi cerca di, oltre ai poteri economici del Lord, cerca di contendere anche la forza sul campo. Vede Gian Domenico, vede che me lo sentivo che arrivava, che le ho detto che quello era un primo cartellino giallo e che ne sarebbe arrivato un secondo, ripeto, sempre di un colore diverso rispetto a quello del www, ma insomma anche lei mi pare che se lo sia discretamente prenotato. Capisco lo spirito, capisco il suo, quello di De Laurentiis meno. Non è vero che sia così antipatico De Laurentiis, ci sono delle volte in cui è simpatico ed è anche con dei tratti di genialità, secondo me, però diciamo che gli piace fare il furbo, se posso permettermi, no? E forse gli piace troppo spesso, e questo è un mondo, quello del calcio, in cui quel tipo di quella categoria abbonda e c'è bisogno semmai di persone appare mio di segno diverso. Grazie comunque del suo non brevissimo intervento. Vediamo se sono un po' più sintetici quelli che seguono. Per esempio Roberto che ha chiamato... Luciano? No, sto vedendo dei cenni disperati dalla regia. Come facciamo così? Roberto da Roma, buongiorno. Buonasera, dottor Beranzini. Volevo un suo giudizio riguardo la possibilità della Lazio di vincere lo scudetto, visto che noi laziali ci crediamo. Vediamo. È la quarta opzione, secondo me, per il titolo. No, forse la terza, perché io tra Lazio e Udinese credo che a gioco lungo potrebbe essere più la Lazio quest'anno. L'altro anno toccò l'Udinese fare poi quel punto in più, o quant'era, insomma, che le consentì l'accesso ai preliminari di Champions a danno della Lazio. Quest'anno forse credo in prospettiva potrebbe essere un filo più quadrato la Lazio, però insomma io ragionerei in termini di terzo posto dietro a Milan e Juventus, e poi vedremo. Io credo in quest'ordine, ma vedremo alla fine in che ordine, perché quello mi sembra un bel dubbio. Che la Lazio possa proprio vincere, bisognerebbe che Milan e Juventus sbagliassero entrambe, non dico tutta la stagione da qua in avanti, ma una parte consistente. Non credo che accadrà. I cenni disperati adesso finalmente li ho capiti, mi stavo dimenticando, e questa sarebbe veramente una colpa molto ma molto grave, di Nicola Filippone e del suo 6 di dicembre. Sembra ieri. 6 dicembre 1977. Kevin Keegan, idolo dei tifosi del Liverpool, torna ad Anfield Road da avversario. Dopo 6 indimenticabili stagioni con la maglia dei Reds, è infatti passato all'Hamburgo, avversario del Liverpool in Supercoppa europea. L'andata in Germania si era conclusa sull'1-1. Ad Anfield però non c'è partita. Il Liverpool domina Keegan e compagni e si impone per 6-0. Si tratta del successo con più reti di scarto nella storia della Supercoppa europea, insieme ad Ajax Milan del gennaio 1974, terminata con lo stesso punteggio. L'ultimo gol della sfida di Liverpool porta la firma di Kenny Dalglish, ingaggiato proprio per sostituire Keegan e già entrato nel cuore dei tifosi. Beh, insomma, questa è una discreta chicca, direi, pescata da Nicola. E ce ne sono altre due, perché ho già letto i testi dei prossimi due giorni, che sono entrambi festivi a Milano, perché domani a Milano è Sant'Ambrogio e poi mercoledì e poi giovedì è festa per tutti. E anche quei due varrà la pena di ascoltarli, perché ha trovato Nicola Filippone davvero le ricorrenze che vale la pena di ripassare. Lazio-Udinese lo scorso anno, dicevo prima all'ascoltatore, furono divise poi dalla differenza reti, in realtà, perché alla fine fu l'Udinese a spuntarla davvero per un'inezia, no? E quest'anno non è detto che vada alla stessa maniera sul piano gerarchico, però è anche vero che si sono giocate 13 partite di campionato, che vuol dire un terzo appena appena abbondante, perché le partite sono 38. Allora ipotecare, non so, che il Napoli non possa rientrare, per esempio, mi sembra un po' prematuro ancora. Luciano, provincia di Forlì e Cesena, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Buongiorno a lei. Ascolti, io volevo un suo parere riguardo al rigore concesso domenica a Torino in Juventus Cesena. Beh, ma rigore... Sì, ma l'abbiamo già menata ieri su sta storia. Rigore... Io volevo fare alcune considerazioni. A parte che, diciamo, la Juventus non ha necessità di avere questi rigori, sì, che poi la penalizzano poi nei confronti anche di visualmente nei confronti anche di altre squadre, no? Vabbè, e tutti i discorsi già di ieri, le ripeto, Luciano, però vabbè. No, quello che mi dispiace è che comunque poi Antonio è squalificato per una giornata senza commettere assolutamente nessun tipo di fallo. Lo so, infatti quello è l'aspetto negativo, già sottolineato da ieri. Io torno a ripetere che domenica ha proprio sbagliato alcune decisioni, prima penalizzando la Juventus perché un giocatore almeno del Cesena, se non due, meritavano di essere espulsi prima, come il Cialda Rossi, e poi invece dando questo rigore ed espellendo Antonioli, che non c'entrava davvero nulla, perché aveva semplicemente fatto un'uscita perfetta, tra l'altro, e tempestiva, su quel traversone proveniente da destra. Dopodiché, una volta intercettato il pallone, non poteva, come dicono quelli che parlano bene, non poteva smaterializzarsi, e quindi non poteva che che beccare Giaccherini, che a sua volta non poteva sparire perché, seguendo con l'occhio il pallone e non il movimento del portiere, era destinato a scontrarsi. Tra l'altro sono 12 gli squalificati per il prossimo turno, che sono davvero tanti, e sono purtroppo davvero Antonioli del Cesena, perché Duralex, Sedlex, Ferronetti e Pinzi dell'Udinese, Gago, Bojan e Wang della Roma, Calazza del Genoa, Zanetti dell'Inter, Lucchini Atalanta, Migliaccio Palermo, Pulzetti Bologna e Strasser Lecce. Sono stati ufficializzati poco fa. C'è ancora spazio, credo, sì, per Nicola, chiamato da Lanciano. Buongiorno. Sì, buonasera, dottor Garanzini. Sera lei. Sì, una domanda. Tra l'altro, sulla partita Bayern-Napoli, io credo che il Bayern comunque lotterà fino con il Manchester, fino all'ultimo, perché togliere il Manchester City da questa coppa è un bel traguardo anche per lui, per lei, perché praticamente le squadre che se la lottano quest'anno, diciamo che ne possono essere sei: le tre inglesi, il Bayern e le due italiane. Dunque, le tre inglesi potrebbero finire fuori tutte stasera, eh? Quindi ragione. Sulle tre inglesi ci andrei pianino. Ho pienamente ragione, perché vista la situazione, però come tutti gli anni, alla fine sono dimostrate quasi le migliori, diciamo. No, quindi certo. Togliersi un Manchester City per il Bayern è meglio che tenersi che togliersi il Napoli, diciamo. Ma non lo so, non ci scommetterei. Per quello che si è visto in Coppa fino adesso, forse sarebbe meglio, non vorrei disilluderla, ma forse sarebbe meglio togliersi il Napoli dal punto di vista del Bayern. Però mi creda, questi sono ragionamenti che secondo me facciamo alle nostre latitudini. Io credo che i tedeschi vadano a Manchester per giocare ragionevolmente la partita, però senza ammazzarsi, questo se lo tolga dalla testa, credo almeno. O sono scoppiate rivalità improvvise nelle ultime ore, o se no io penso che giocheranno come hanno giocato lo scorso anno. Lo ricordava Tavelli non molto tempo fa, all'Olimpico con la Roma erano già tranquillamente qualificati, giocarono un primo tempo più che decoroso, mettendo molto in difficoltà la Roma. Quando la Roma si scatenò, diciamo che la lasciarono scatenare, ma insomma più o meno è quello che accade in circostanze di questo genere. Quindi io direi che il Napoli la sua partita se la deve fare là, contro una squadra a zero punti, deve vincerla, e non c'è molto altro da discutere. Ne riparliamo domani. Grazie a Fabio Cantadori in regia, Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.